Parte seconda, capitolo 9. Una buona giornata. I tre orsi occupavano il mio ufficio all'ospedale. Orso Grande intendeva scrivere una storia vera su Hong Kong e aveva deciso di passare una giornata al pronto soccorso per raccogliere elementi di vita vissuta. Orso Medio era laureato alla Scuola di Economia di Londra e teneva una copia del New Statesman arrotolata sotto al braccio. Orso Piccolo, un emaciato idealista che la sofferenza umana aveva portato in uno stato di indignazione tale da spingerlo all'espiazione personale, era venuto per studiare le proprie reazioni al diretto contatto del dolore biologico. Il lebbroso barcollava di fronte a loro, era affamato e stava per essere deportato per la terza volta. Durante quell'inverno i lebbrosi venivano sbattuti avanti e indietro dalla Cina. I cinesi li spingevano a Hong Kong, dove venivano scoperti, portati all'ospedale, riconosciuti infetti e rimandati oltre il confine. Due zelanti missionari avevano organizzato una specie di lebbrosario temporaneo in alcuni capannoni, ma era sovraffollato. Un giorno si sarebbe finito col trovare un pezzo di terreno trascurato dagli speculatori, un filantropo avrebbe dato una forte somma e altri avrebbero seguito il suo esempio per mettersi in vista nella caccia alle onorificenze. Allora qualcuno avrebbe posato la prima pietra e Hong Kong avrebbe avuto un vero lebbrosario, ma per il momento i lebbrosi se la passavano molto male. Mr. Mok, il meraviglioso assistente del pronto soccorso, aiutava il lebbroso a infilare la logora giacchetta azzurra. Affascinata, a ragionevole distanza, la folla cantonese seguiva i suoi movimenti. La lebbra terrorizza gli uomini e quando gli uomini sono terrorizzati possono fare cose terribili. Gettano pietre ai lebbrosi e sbattono a terra il cibo solo perché sono spaventati, ma se qualcuno che non dimostra né paura né disgusto tratta un lebbroso come un essere umano, dimenticano la loro paura. Mr. Mok era un eroe e non lo sapeva. La lebbra può essere curata, disse ad alta voce alla folla. Non temete di venire all'ospedale non appena notate i primi sintomi. Ora è possibile guarire qualsiasi malattia se presa in tempo. Specialmente i bambini, portateli in tempo. Mr. Mok amava i bambini. Rivoltante, esclamò Piccolo Orso. Il governo di Hong Kong non può fare qualcosa per questo poveretto? L'avrebbero nutrito e poi deportato. Hong Kong era sommersa da gente giunta dal continente. Tutto era forzato all'estremo, alloggi, acqua, cibo, ospedali. La colonia aveva fatto del suo meglio, resistendo all'urto di una popolazione improvvisamente raddoppiata. Non c'erano state epidemie e centinaia di poveri erano stati assistiti. Naturalmente non mancava l'inevitabile sciupio dovuto all'inefficienza umana, alla stupidità, al lavoro mal fatto. Ma il sistema aveva tenuto e si faceva il possibile per arrivare da ogni parte. Che strano, mi dissi, che proprio io, asiatica e educata nell'odio del colonialismo, sia qui a lodare l'opera del governo coloniale. Speriamo che nessuno cinese mi consideri un leccapiedi dell'imperialismo britannico. Ma Piccolo Orso, essendo inglese, trovava molto a ridire sul conto del suo governo. Dovremmo fare di più, molto di più. Dottore, un caso di esplosione, annunciò Mr. Mok. Gli addetti all'autoambulanza portarono dentro il caso su di una barella. Un'ora prima era stato un pescatore su una giunca, pronto a lanciare una specie di dinamite fatta in casa per uccidere i pesci. La carica era esplosa troppo presto. Una mano penzolava all'estremità di una specie di cordicella bianca e ritorta che era stato un nervo, e l'altro avambraccio era amputato poco sotto il gomito. Non c'era più il viso. Ma il caso era ancora vivo e si lamentava. Mr. Mok gli fece un'iniezione di morfina. La sala operatoria era pronta. Piccolo Orso scomparve. Il grasso doppiomento gorgogliante di riso, Mr. Mok offrì del cognac a Orso Medio. Orso Medio sembrava alquanto scandalizzato del riso di Mr. Mok e dovetti spiegargli che rideva appunto perché era sconvolto da quel caso pietoso. Anch'io sono così e molti cinesi lo sono. Ma Orso Medio scosse il capo, non convinto. Una dissenteria, una frattura al cranio, un bambino ustionato. Poi entrò un uomo, scheletro ambulante, che stringeva al braccio la giovanissima moglie incinta. Uno sguardo mi fu sufficiente. Tubercolosi, la piaga di Hong Kong. La scorsa settimana 76 morti su 92 per tubercolosi, 152 nuovi casi denunciati. Ho visto i quartieri dei poveri e le baracche, disse Orso Medio. Ho girato parecchio il mondo, ma non avevo mai visto nulla di simile. Non c'è denaro sufficiente per demolire e rifabbricare. Non ci sono terreni a buon mercato. I quartieri dei poveri avrebbero dovuto essere demoliti 20 anni fa. Poi c'è stata la guerra ed ora Hong Kong è sovraffollata. Un'altra guerra potrebbe essere imminente. La povertà, la sporcizia, la malattia sono autentici internazionalisti. Non c'erano abbastanza letti, né sanatori. Centinaia di nuovi casi si presentavano alle cliniche per essere visitati e passati ai raggi X, ma si era costretti a rimandarli a casa, raccomandando loro di riposare. Come potevano riposare? Se lasciavano il lavoro morivano di fame. E così tiravano avanti fino alla morte. Posso vendere mio figlio? Disse la ragazza. Dietro di lei il bimbo si succhiava il pollice a testa china. Siamo di buona famiglia, il mio piccolo è intelligente e ben fatto. Se lo vendo avremo sufficiente denaro per guarire mio marito. Erano profughi. L'uomo, ufficiale di una di quelle unità dell'esercito sconfitto che si erano rifugiate a Hong Kong. Il governo dava loro lo stretto necessario per vivere. Formosa non li voleva, la Cina non li voleva. Hong Kong li teneva in vita, ma non poteva far altro che lasciarli marcire lentamente nei campi di raccolta, alla periferia. In qualunque altro luogo sarebbero morti. Riuscimmo a procurare all'uomo un pagliericcio per terra in un ospedale per incurabili. L'ospedale era sovraffollato, vi erano due malati per letto e altri sul pavimento, ma era sempre meglio che morire in una baracca o per la strada. È arrivato il funzionario della dogana, annunciò Mr. Mock, facendo nuovamente capolino alla porta del mio ufficio. 28 sospetti, dottore. Verghe d'oro, spiegai agli orsi. Accucciati sul pavimento della sala grande del pronto soccorso, stavano 16 donne e 12 uomini arrestati sul battello di Macao per sospetto traffico d'oro. Il contrabbando fioriva. Molti lo facevano per guadagnarsi la vita e molti altri, dopo aver convertito i loro risparmi in una verga d'oro, speravano di riuscire a entrare a Hong Kong senza essere scoperti. Un certo specialista di Macao introduceva le verghe, avvolte in carta velina e in una sottile guaina di gomma, nei loro recipienti umani. Poi avvertiva la polizia di Hong Kong, guadagnando così dalle due parti. I sospetti vennero passati ai raggi, 7 di essi rivelarono verghe d'oro nel retto. Il funzionario della dogana appariva soddisfatto del bottino che Mr. Mock ed io recuperammo con le dovute cautele. Lili Wu irruppe allegramente nel locale, rivolgendo a Mr. Mock un brillante sorriso. Ma egli non se ne accorse nemmeno. Viveva soltanto per fare iniezioni, per confortare i lebbrosi, per fare paternali agli aspiranti suicidi, per convincere i bambini a lasciarsi visitare e per portare i neonati con maggior delicatezza di quanto facessero le loro stesse madri. Mister Mock conosceva la medicina umana meglio di molti medici ed era un maestro migliore di molti professori. Non perdeva mai la pazienza ed io gli chiedevo sempre consiglio. Eravamo buoni amici. Dopo la sua iniezione di penicillina, Lily si fermò per la solita chiacchieratina e accese una sigaretta. Miss Wu di Pechino, dissi, presentandola agli orsi che si alzarono rispettosamente per stringerle la mano. La forza dell'abitudine spinse Lily a lanciare messaggi in codice coi grandi occhi neri a Orso Grande, ma tosto ricordò che nel mio ufficio ella era una ragazza di buona famiglia e distolse subito lo sguardo dall'orso. Ella mi era stata portata una sera dopo parecchi cognac e due pastiglie di aspirina. Il miscuglio l'aveva ubriacata per la prima volta in vita sua. «Mi ha morsicato!» Non faceva che ripetere l'uomo che era con lei, mostrando il polso sul quale la sana dentatura di Lily aveva lasciato il segno. Il poliziotto che me li aveva accompagnati badava a tenerli a debita distanza l'uno dall'altra. Lily aveva passato la notte nella nostra corsia, sorvegliata, e il mattino seguente l'avevo ammonita: non dovete morsicare la gente. Ho dovuto fare un'iniezione a quell'uomo ed è stata dolorosa. Per nulla intimorita, Lily era scoppiata in una risata convulsa, nascondendo il viso nel lenzuolo. Mi era simpatica. Rimessa in libertà, ella aveva poi dato un tè rispettabilissimo in mio onore a casa sua. Molte sue sorelle erano ormai giunte da Pechino insieme ai ricchi, ai poveri, agli intellettuali, ai medici che fluivano lentamente dalla Cina per sottrarsi alla pressione comunista sempre più incalzante. Dopo la prima rampa di scale del secondo piano, invisibile di giorno nell'oscurità del pianerottolo, ma illuminato di notte da una lampadina elettrica, c'era un grande affresco rappresentante una pesante aquila che ghermiva fra gli artigli un piccolo stendardo con la scritta Benvenuto. Sulle prime, le ragazze riunite nel salottino con le sue poltroncine ricoperte di cretonne sbiadita e i tavolini abbondantemente forniti di portacenere, si erano dimostrate piuttosto timide, ma poi si erano azzardate a farmi parecchie domande di genere medico. Da parte mia mi ero fatto una cultura di nuovo genere. Quelle ragazze sembravano vivere di statistiche. Ero stata edotta sulla cifra spettante al cavallo che portava i clienti, sull'entità dei regalucci che era necessario fare prima di Natale per poter assicurare pace e protezione alla casa, e sulle ragioni inoppugnabili che facevano degli americani clienti migliori. Non è questione di pregiudizi di razza, dicevano. Noi non abbiamo pregiudizi, ma i soldati inglesi non hanno abbastanza denaro. Un americano vale 2 inglesi e mezzo. Dobbiamo pensare al nostro interesse, non possiamo lavorare troppo e stancarci eccessivamente. E naturalmente, quando una ragazza era stata con stranieri, i cinesi non ne volevano più sapere. All'apparizione fugace di Mr. Mock nel mio ufficio, seguì l'invasione di una piccola folla vestita di nero. Un'intera famiglia terrorizzata, circondante la madre che mi pose un fagotto sotto al naso. Era un bambino spaventosamente infagottato. Strato dopo strato, togliemmo tutti gli indumenti finché non apparve l'addome lucido, enorme, teso e quasi trasparente, solcato da una rete di vene. Sembrava che da un momento all'altro dovesse scoppiare come un pallone gonfiato. Intorno all'ombelico spiccavano numerosi quei segni di bruciature, scuri e rotondi, simili a occhi di civetta, che gli erboristi cinesi sono soliti praticare con uno stoppino attraverso fette di radice di zenzero per far uscire il male. Al di sopra di questa mostruosa sfera, il petto sembrava una gabbietta per uccellini. Il viso era quello di una scimmietta in miniatura. Gli occhi erano sbarrati e già velati dalla morte. Da quanto tempo è malato? Chiesi. E ancora una volta udii la solita risposta. Oh, da molto, molto tempo. E allora perché non siete venuti prima? Ci, non sapevamo. Era sempre la solita storia. Venite subito, venite presto, ripeteva Mr. Mock, sempre pronto a insegnare là dove ce n'era veramente bisogno. Il bimbo morì nell'ascensore, mentre veniva trasportato alla corsia dei bambini. Bene, è stato davvero interessante, molto interessante, disse Orso Grande consultando il suo orologio. Grazie infinite, dottore, è stato davvero interessante. Giudicai che avesse collezionato sufficienti istantanee di vita vissuta da bastargli per parecchio tempo. Orso Medio rimase. Altri casi di tubercolosi, altri bambini, altri individui sospetti. Discutemmo a lungo dei campi dei profughi, dei senzatetto, della denutrizione, della fame, dei diseredati che costituiscono gli 8 decimi della popolazione mondiale. Un assistente sociale entrò, tenendo per mano una bambina dal viso piatto da rana. Non era certo cantonese. Caso di stupro, spiegò allegramente. Volete visitarla per averne una conferma? Cielo! Esclamai. È più giovane di mia figlia May. Non ci sa dire la sua età, dichiarò l'assistente sociale. È una schiava appartenente a una famiglia di ricchi profughi provenienti dallo Sichuan. L'esame radiologico delle ossa fa credere che sia sui 12 anni. Fino a quel momento, tutto il dolore che mi era passato davanti non aveva avuto il potere di sconvolgermi. Purtroppo vi ero ormai abituata. Ma il fatto che quella bambina fosse più giovane di mia figlia mi turbò infinitamente. Si è presentata alla polizia di sua volontà, disse l'assistente sociale. Il suo padrone ha tentato di prenderla per la seconda volta e lei l'ha schiaffeggiato. E poi è fuggita giù per la collina e l'ha denunciato alla stazione di polizia. Un fatto davvero insolito. Cielo! Esclamai ammirata. Che coraggio! Mister Mock, l'assistente sociale ed io guardammo tutti, oh no, poiché si trattava di lei, commossi e stupiti dal suo coraggio. Quando la polizia andò ad arrestare vecchio padrone Zhu, tutte le taitai urlarono e svennero e i servi terrorizzati si nascosero nelle loro stanze, sbarrando le porte. Quanto a vecchia padrona, decise di uccidersi ingoiando un'oncia di oppio, ma poi ci ripensò e finì col limitarsi a fumarlo. Vecchio padrone Zhu gridò più forte di tutti, svenne con maggior convinzione e si strappò gli abiti di dosso con grande efficacia. Era convinto che si trattasse di un complotto della polizia di Hong Kong per ricattarlo. Offrì denaro a tutti e rimase addirittura sbalordito a sentirselo rifiutare. Ma com'è possibile? Continuava a gridare. Non è mai accaduto che una schiava osi ingiuriare il suo padrone in questo modo. È un'ingiustizia. A forza di urlare finì con l'ammalarsi e anche il suo cervello ne risentì. Non c'è giustizia e libertà a Hong Kong, gridava, gli occhi iniettati di sangue. Qui siamo tutti oppressi. Ditemi, mi chiese Orso Medio, perché vi siete tanto eccitati per quella ragazza? Sembravate anche molto soddisfatti. Perché? Ma non lo capite da solo? In Cina, oh no, non avrebbe mai ottenuto giustizia. Non nella vecchia Cina, almeno. Non sarebbe mai andata a denunciare il suo padrone, e anche se l'avesse fatto, nessuno le avrebbe dato ascolto. Nella vecchia Cina la parola di una schiava non conta nulla. Ecco perché eravamo tanto commossi. Per noi, oh no, è un'eroina. Una buona giornata, piena di lavoro, dottore, osservò Mr. Mock mentre stavo preparandomi ad andarmene. Le maniche arrotolate, stava inoculando il siero antitifico a una lunga fila di pazienti, parlando con ognuno e interessandosi a ogni caso personale. È davvero terribile, disse Orso Medio. Sono tutte cose che si sanno, naturalmente, ma il vederle è un altro paio di maniche. Quanta miseria e quanto dolore nel mondo. Era vero. E sono ben più importanti della politica, poiché la politica passa, ma il dolore, la fame e la miseria, come il proverbiale ruscello, durano in eterno. Capitolo 10. Amore profano. Per chi ama, non c'è nulla di più prezioso del piacere dell'amato. Per Mark io avrei saccheggiato il mondo di ogni sua bellezza. Non potendo piacergli maggiormente, usando artifici sulla mia persona, andavo in cerca di bellezza da condividere con lui, nelle parole, negli amici, nella natura, nelle opere del cielo e degli uomini. Guarda, dicevano i miei occhi, guarda, non è bello quest'uomo? Siedo sotto l'albero dell'amore che abbiamo piantato insieme, osservandolo come si osserva un uccellino su di un alto ramo, una farfalla che va di fiore in fiore, soddisfatta di vederlo e di sentirlo, di saperlo vivo sulla terra. E fa che io non desideri di più, perché tale desiderio sarebbe delitto. Una sola cosa mi preoccupava, che potesse negare se stesso per amor mio. Non volevo limitarlo in alcun modo. Una donna europea non potrebbe capirti, Su Yen, appunto perché mi ami, mi spingi ad esserti infedele. Ma è così ingiusto limitare il tuo io vivo, costringerti entro i miei confini. Il tuo piacere è la mia gioia, e il pensiero che tu possa perdere o rimpiangere una particella della tua vita mi addolora. Elle ne fait rien pour exciter mon amour, disse Mark, car elle a l'insouciance des grands enchantements. Questo è dinastia Ming, non Flaubert. Hai letto il libro intitolato A Floating Life? È la storia di Shen Fu e di sua moglie Yun, civilizzati amanti della bellezza. Anch'essi si amavano con delicata e commovente tenerezza. Yun cercò di comperare una fanciulla quale concubina per il marito. Ma la nostra passione è tanto piena, obiettò Shen Fu, non ha bisogno d'altro. Ella è bella e degna d'amore, gli rispose Yun. Lasciami fare. Come noi, Shen Fu e Yun guardavano la luna, leggevano, recitavano e scrivevano poesie, Amavano i fiori, bevevano vino e avevano molti amici. Come noi si propiziavano gli dèi con sacrifici e temevano la collera del cielo, poiché la grande felicità dispiace agli dèi. Infatti la loro non ebbe lunga durata, purtroppo. Solo 23 anni di amore coniugale insieme. Solo 23 anni, ripeté Mark. A loro parvero pochi. Di sua moglie, Shen Fu dice, credo che l'animo sensibile di Yun non si sia più ripreso dal dolore che provò allorché la fanciulla venne venduta a un tronfio commerciante, anziché entrare a far parte della nostra famiglia. Questa fu la causa della sua breve vita. Shen Fu e Yun vissero in Cina quasi 5 secoli fa. Chissà che direbbero i tuoi missionari, e anche padre Lo, se ti sentissero, esclamò Mark. Oh, farebbero della morale. Padre Lo, per 10 minuti, i missionari più a lungo, ma i moralisti sono fuori posto in una galleria d'arte. Inoltre, Shen Fu e Yun furono morali per i loro tempi. L'altruismo e la generosità coniugale di Yun sarebbero stati lodati dalla famiglia e dagli amici del marito. Una moglie veramente innamorata e non gelosa, avrebbero detto. L'amore e la gelosia non possono stare insieme. Com'è possibile essere gelosi quando si ama? Come Shen Fu, io non voglio altro. Sarebbe come mettere zampe a un serpente, disse Mark citando il proverbio cinese. La nostra passione mi soddisfa completamente e ti prego notare, soggiunse con la lieve solennità che gli era propria allorché voleva burlarsi di me, che non uso la parola nel senso ristretto della nostra goffa e barbara generazione, bensì per indicare quel fondersi di elementi convergenti a una sola meta, le transport total de mon âme envers vous. E tuttavia io temo sempre che gli finisca con l'impantanarsi in una mentalità domestica, tarpando le ali della sua immaginazione per abbassarsi al mio livello. Temevo di vederlo diminuito dalla promessa non pronunciata, come molti vengono diminuiti da quello spaventoso complesso di possessività e di abitudine che viene spesso a formarsi fra le coppie legalizzate. Era nato libero e tale volevo che rimanesse, e così facendo lo legavo a me con la più forte delle catene. Uno dei miei primi ricordi di capelli, disse Mark, lo devo alla mia amah di Pechino. Ricordo la sua lunga coda, una treccia fitta e vigorosa che dalla testa lucida le arrivava fino alle ginocchia, legata con un nastrino nero. Non mi stupisce affatto che molti credano nella capigliatura quale sede della vita e ritengano che tagliandola la vita stessa venga a trovarsi in pericolo. Viva e vibrante era la treccia a cui mi aggrappavo con le mie manine di bimbo, attorcigliandola attorno al polso. Ancora oggi mi pare di sentire il solido intreccio di quella forte corda tra le mie palme, e mi piace pensare che la mia passione vittoriana per i capelli abbia le sue radici in quel primo ricordo sensuale. Per tutta la vita, prima di trovarti, ho desiderato inconsciamente una donna dai lunghi capelli neri sciolti sulla schiena. Tu continui per me la tradizione sotto la quale ho vissuto da sposa, gli risposi, forse perché sei nato a Pechino pur essendo tanto inglese. Come tutti i cinesi, mio marito amava i capelli lunghi e non volle mai permettermi di arricciarli, di tagliarli e nemmeno di mostrarli. Li tenevo stretti in un grosso nodo, come ora, poiché egli riteneva di pessimo gusto che una donna mettesse in mostra la sua bellezza. Non sapevo che i tuoi fossero tanto lunghi fino a quella notte in cui li sciogliesti, ricordi? Dovresti vedere mia sorella Sushen, risposi arrossendo violentemente al ricordo. Li porta sciolti sulle spalle come un manto di grazia. Ti darà piacere. Sushen era giunta a Hong Kong da 2 settimane e abitava in una stanza affittatale da una famiglia portoghese in attesa del visto per gli Stati Uniti. Decisi di farle conoscere Mark e diedi un appuntamento a entrambi al Parisian Grill. Sushen fu la prima ad arrivare. Vestiva di lino rosa e il suo viso appariva più rotondo e più felice che non a Chongqing. Poi comparve Mark, che non vedendoci si avviò nella direzione opposta. Quello è Mark, disse a Sushen emozionatissima. Sushen lo scrutò attentamente, cominciando dalla schiena. E quando egli si volse e venne verso di noi col suo passo lieve, mi diede il suo responso. Naturalmente, tu scegli tutti i tuoi belli dello stesso tipo, vero? Ma questo è inglese, protestai indignata. Sushen scrollò il capo. Fin dai tempi dell'università, tutti i giovanotti che frequentavi e anche tuo marito erano del tipo di quest'inglese. Mark ci stava di fronte e attendeva che lo presentassi a Sushen. Lo guardai come se non l'avessi mai visto prima di allora. Egli ci rivolse un disarmante sorriso e i suoi occhi si posarono sul viso di mia sorella, incorniciato da cortissimi riccioli. Profondamente delusa, anch'io guardai la testina tosata di Sushen. Ella se ne accorse e sorrise, esibendo ancora una volta la nostra smagliante dentatura di famiglia. Sì, finalmente posso avere un aspetto decente. Tutti quegli orribili capelli. Non ho potuto aspettare un momento di più a tagliarli e a farmi fare la permanente. Incontrai Margaret in Pedder Street, accanto all'ufficio postale. Questa mattina sono stata morsicata da un centopiedi. Che cosa ci posso mettere? Mark ed io venivamo sempre interpellati dai passanti che volevano sapere l'ora, la strada e anche cose più sorprendenti. Forse ciò era dovuto al nostro sguardo un poco assente. Margaret era una turista e partiva per Bangkok il giorno dopo. Indossava un vestito color cedro e i suoi occhi erano di cobalto con lunghe ciglia scure. Portava i capelli acconciati in trecce piatte intorno al capo e il suo accento americano era delizioso. Dopo che l'ebbi accompagnata in farmacia, mi invitò a bere un aperitivo nella sua stanza al Gloucester Hotel. 10 minuti e due aperitivi furono sufficienti per farci provare una violenta simpatia reciproca e per spingerci a confidarci i fatti salienti della nostra vita passata. Non potevo toglierle gli occhi di dosso. Come siete bella, esclamai, più che mai sensibile alla bellezza dopo i 2 gin bevuti. In America ci sono donne straordinariamente belle. Ella sedeva davanti al grande specchio, guardandosi con occhi sognanti, le rosse labbra incurvate in un sorriso di piacere alla propria bellezza. Poi tolse i piccoli pettini di tartaruga che fissavano le folte trecce e i capelli le caddero in un'unica serica onda sulla schiena. Una lunga fiamma liscia, ancor calda dal contatto con la pelle. Margaret la scosse facendola vibrare di riflessi di oro caldo finché ricadde lucida e compatta come l'ala di un uccello dorato. Gridai di gioia e di dolore, sentendomi trafiggere da innumerevoli piccole pugnalate di piacere. Oh, Margaret, come vorrei che Mark potesse vedervi. Ella rimaneva immobile, offrendo alla sua immagine nell'alto specchio il lungo collo bianco, simile a un giglio sbocciante dal lino verde dell'abito. Oh, lasciate che vi porti qui, Mark, supplicai. Probabilmente è nella sala dell'ottavo piano, ve ne prego. Corsi alla sala dell'ottavo piano, covo abituale dei giornalisti, ed ecco infatti Mark in mezzo a un gruppo di colleghi che discuteva animatamente. Piombai su di lui, lo presi per mano e lo trascinai all'ascensore senza dire parola. Parve un po' stupito, ma mi seguì docilmente. Che succede? Chiese. Poco fa John Tam mi piomba addosso girando per le cucine perché non riesce a trovare l'ascensore e vuole che gli procuri un bicchiere di birra ghiacciata. E ora tu mi rapisci in pieno giorno dai miei colleghi. Con voi dottori la vita è un seguito di sorprese. Aprì la porta della stanza di Margaret. Giaceva sul letto emettendo anelli di fumo. Sorrise pigramente a Mark, le mani allacciate dietro la nuca. Aveva nuovamente appuntato i capelli. Salve, disse. Oh, Margaret, sciogliti i capelli. Ella obbedì senza mai distogliere lo sguardo da Mark. Ti piacciono, Mark? Non sono splendidi? Credo che, essendo inglese, Mark fosse più che sorpreso, un poco scandalizzato, ma non lo diede a vedere e ben presto fu anche egli affascinato da tanta bellezza. Sì, mormorò, sono davvero splendidi, meravigliosi. Margaret ed io scoppiamo in una risata. Quella sera Margaret cenò con noi al Parisian Grill e poi la portammo in taxi fino in cima al Peak per mostrarle Hong Kong, tesoro di un ladro di gioielli. Conosco un negozio a Bruxelles, in Rue de la Paix. È un piccolo negozio grigio con una vetrina perfettamente circolare, tagliata nella pietra della facciata, disse Margaret. I scintillanti capolavori di quel super creatore che è Mr. Burma Sono sparsi sul liscio velluto nero fiumi di brillanti, fontane e spruzzi di rubini e di smeraldi, cascate di spille e galassie di topazi, zaffiri e acque marine. L'iscrizione a piccole lettere grigie sopra la vetrina dice Le bijoux Burma, aussi beau que de vrai. Hong Kong di notte mi ricorda quella vetrina, tagliata in qualche punto del muro di un mondo. Un'evasione in una terra incantata, un lucente miraggio che del miraggio ha tutta la fragilità. È come se da un momento all'altro dovesse scomparire nel velluto nero della notte. Avevamo condiviso la stessa gioiosa follia e ci salutammo con rimpianto. Non ho mai più rivisto Margaret, ma per molto tempo non potei dimenticare i suoi capelli.